da spiegare, perché se uno non è addentrato nell'ambiente, no. Forse un po', magari Luca ne capisce qualcosa. Sì, sono computer, dai. Cioè, comunque questi notebook hanno una di merda. Hanno una di merda, vabbè, alla fine questi notebook si usano per fare karaoke. Come l'ho fatto a figlia, lo fa chiunque, dai. Sono buoni, alla fine già fanno sa dovere. Però proprio così, se tu stacchi faccio un esempio, questo qua, ci avete, aspetta un secondo, esempio, questo qua, allora, vediamo un po', una canzone qualsiasi, a vedere, c'è un audio bassissimo, c'è un audio brutto, cioè proprio fa cagare. Allora, il PC portatili, l'ho già spiegato poco fa, non hanno una buona scheda audio. Per quanto riguarda a quello che occorre a me, capisci cosa ti voglio dire? Non è che non va bene, va bene se stai facendo poco, perché dai il segnale al mixer e il mixer lavora per conto suo, quindi tutto lavora il mixer. In questo caso mio è diverso, perché io devo entrare tutto nel mixer, entrare nel PC e trasferire poi il segnale regolato dalla regolazione che si fa col mixer e con l'equalizzatore sull'altro PC, e l'altro registra perfetto, e non l'accetta il mixer la registrazione diretta a quell'altro PC, che insomma viene male a spiegare, è una cosa un po' complicata. Hai capito, Lu? Natalia, a te. Capo, io di queste cose di registrazione non ne capisco nulla. Nel gruppo dove sto suonando io stavamo facendo questo, stavamo registrando, no? Le cose che stavamo suonando, e a un certo punto è partito la scheda audio, non serviva la scheda audio. La scheda audio non conviene comprarla, perché avevamo una scheda audio che mi era costata 180 euro per una scheda un po' professionale. Poi schede audio ce ne sono anche da 600, da 1000 euro, da 2000, e dipende, ci sono amplificate, non amplificate. Quindi perché io devo spendere a comprare una scheda audio costosissima quando basta prendere un PC normalissimo e la scheda audio del case è già buona quella? Io ne avevo schede audio mie, ce le buttate. No, non ci siamo spiegati. La scheda audio non è che tu la puoi aggiungere, il computer quando non accetta la scheda audio che hai da un'altra fonte, non va bene. La scheda audio nasce nel computer stesso, quindi quella va bene. Sì, nello slot ce la puoi aggiungere, ma che tipo di scheda audio ci metti? Quando è meglio quella che ha già la sua originale. Ma se è di merda quella originale, la sostituisci e ne metti una migliore, no? Capito? Ma sono d'accordo, ma se vai a comprarla una scheda audio migliore, costa 200 euro, costa più del computer, tanto vale che prendi un computer, un case che costa 100 euro e ce l'hai già. Capito, bisogna vedere però se va bene per i tuoi scopi la scheda audio che ha quel computer che prendi per 100 euro. Guarda, me l'hanno proposto uno, ma a dire la verità, me volevo un pochettino, voleva solo 250 euro, questo qua, aveva 8 giga di RAM, 500 giga di... non me ne faccio nulla di una cosa così potente, perché mi serve come segnale di trasferimento andare a fare la registrazione. Quindi è una cosa costosissima, non mi serve. E per giocare, per gusto mio, e cosa lo stanno a fare tutti questi soldi? Per che cosa? Lo so. È come quello che ci compra un telefono che costa 800 euro. E non è che sono il vostro. Il telefono con 150 euro mi compro un telefono e fa quasi tutto. E bisogna, purtroppo questi, io mi dispiace dirlo, ma sono un po' pazzuidi. L'altro giorno c'era uno che diceva, guardate che questo è un telefono così. Ma guarda che questo è un telefono, me. Il telefono sai cosa serve, va a telefonare. Allora, cosa vuoi fare? Questo è sempre il telefono, insomma io faccio tutto come serve, vabbè, e tu uno che ha un computer fa quello che fai tu, cosa c'è? Infatti, ma niente fissata, rubata nel maggiugà, non per telefonare. Oh yeah, fate lui. Ma infatti, qui alla fine si. Io lo uso per lavoro, lo uso anche per controllare, cercare, fare, alla fine è sempre lavoro, sì, Vittorio, è un casino, capito? Un casino nero. Vabbè, che vuoi fare? Tanto che c'avevo anni, cazzo, anni, esodi, anni, sudato, acceso, bruciato. Io ho messo l'SSD, ho sbagliato formattazione. L'ho messo in formattazione normale e non mi riconosce i cosi. Non posso mettergli gli hard disk perché non ti riconosce. Capito? Bisogna formattarli tutti nello stesso modo. E vuole nel formato che vuole l'SSD. Sennò ti incasina tutto. È un casino. Io non lo sapevo, vedi? Perché bisognava entrare nel BIOS e mettere quel tipo di formattazione dell'SSD. E poi potevo mettere, e ne ho altri tre di quelli meccanici di dischi, però non li posso usare. Per poterli usare mi tocca formattare tutto di nuovo. Capito? E non aggiugana. Se no me l'avrei fatto, mi. Lo so, Natali. Comunque. Questo qua l'abbiamo già sistemato, gliel'ho dato, è praticamente, come si dice, non una videata strana, una scritta inglese, non lo so, comunque gliel'ho rimesso a posto, non so, è pazzesco. Io capisco, è solo che visto, se lo vuol mettere in ufficio non ne vende, sono belli quelli piccolini. Attenzione, io cuca. A farci la rosa è andato. No, sono qua, già c'è da un attimo, ma tanto roba al computer. Cavate la c***a. Cappa, tornata, sì. Ma ciuffando sta, via. No, mi ha chiamato un amico, cioè mi ha mandato un messaggio di chiamarlo perché il suo telefono dice, dicono tutti che non sta funzionando, infatti anche a me mi dava, non era raggiungibile. Ed ero scritto su Messenger che non è raggiungibile. E riprova così, riprova cos'ha, mi ha fatto fare 50.000 prove, sempre lo stesso. Non riesce a farlo funzionare. Ma non è che ha bloccato a tutti, no? No, lui lo sa così, ha preso il telefono, ne ha preso uno così tanto di scorta là, che ci aveva, però non riesce a farlo funzionare. Non so cosa ha combinato. Dili di riportarlo alle funzioni di fabbrica e di riprogrammarlo. Magari si è incasinato qualche cosa. Vuole resettarlo, sicuramente vuole resettarlo, perché dice che non è raggiungibile. Ho provato 40 volte, cazzo, ho detto basta, non ve la butto più, dai, lascia perdere, arrenditi perché non funziona, no? Compratelo nuovo, cosa vuoi ti dica? Ma basta resettarlo, magari si è incasinato qualcosa nel sistema operativo e lo rimette a posto. Alle condizioni di fabbrica lo resetta e così dopo lo può riprogrammare, no? Ma chi è di chi è questo computer già? No, è di un amico di Valledoria che. No, il telefono, non il computer. Non è raggiungibile, mi dice che non è raggiungibile. Ah, capito. Non lo usaccio. Vabbè, comunque. Questi telefoni, questi computer sono un giramento di valle, però come si dice? L'SSD, la scheda, la disk è il migliore, non ce n'è. È il migliore in assoluto. Perlomeno, io questo qua c'avevo meccanico, questo l'SSD è una favola, la grande. Come prego. Ma io volevo aggiungere quelli meccanici per metterci, per fare un archivio, in poche parole, là. Ne ho tre di dischi meccanici, solo che io mettendo l'SSD l'ho formattato normalmente, però tu non lo puoi fare così, a chi così non ti reggirà i dischi. Prego! Avanti, Black! Prego. Ehi, avanti, salve! Qua nelle campagne di... arrivi, se arrivi bene, la grande, penso anche Natale non ti sente, c'è anche Vittorio. Vittorio, volta, non so, ascolti, avanti Vittorio, lo senti a Savilio? Sì, lo ascolto, ma bassissimo però, Fabio un altro passaggio. Buonasera Vittorio. Ciao Gianni. Avanti Savilio. Davvero, avanti. Si sente anche sottofondo la voce, qua poi da canti in batti chi si portati. In Catatella, In batti sì. Ilaria c'è. Scusate, sto cercando il telefono, che mia moglie me l'ha perso. Mi assento un attimo, scusate, mi hanno chiamato. Fallo squillare con un altro telefono, so. Gianni. Oh. Allora, qualcosa si è sentito per la prossima, questa settimana, venerdì andiamo già alla Fine. Lì però, perché è il migliore. Così assaggi quella, zucchine e peperoni. No, non ho sentito nessuno, non ho chiamato nessuno, dico la verità, c'avevo da fare. Io ci sono andato a fare visite, questo, quell'altro, non ho avuto tempo di fare niente, non si è sentito nessuno, ma che frequenza. Natalino c'è adesso, frequenza, basta dire, non si viene. A Torino pure, non so chi vuole venire. Chiedi a Marco Condo, chiamalo. Ma non so quando vuoi andare, cosa gli dico? Venari, venerdì sera, 7:30, 8, venerdì sera. Quel Marcolino manco qua, sta entrando, boh. C'è Cocomane, in giro sempre, vuole Cocomane. Va a comprare un po' di roba, qualche piccolezza. C'è per il giro cercando bamba, sta. Lo credo, c'è il naso grande. Mi sa che sta circolando vicino a questa zona, lui, perché lo sa che ci sono gli spaccini. Gli spaccini si chiamano. E se può comane. Tu guarda lì, ci vediamo già alla Fine venerdì. E dov'è questo posto? Ah, sei vecchio, come venire pure a piedi di voi. In via San Donato. San Donato? Esatto, San Donato. Ci troviamo al corso tutti quanti. Ma già li viene a prendere a me, non lo so. Possiamo scendere a piedi, non è un problema. Ma dove c'è Antonio, stai dicendo tu? San Donato, Natale, non sai dove è San Donato? Ma c'è la chiesa, lì. Lì, ma lì, lì te la mangi? Cosa ha fatto? Un posto dove si può mangiare la Fine lì? E allora, lì ce la mangiamo, è certo che sì. Ma buona davvero, buona, veramente buona. Quella con le zucchine, peperoni, è fantastica. Poi c'è cipolla, ci facciamo fare un mix. A volte abbiamo speso a testa 13,50 euro. Ehi, già lo so che Antonio la fa buona la Fine, però non sapevo che si poteva mangiare lì. E chi è Antonio? Si chiama Benito. No, allora è un altro. Ah, Benito. No, è buono, la telefono ti rimane sullo stomaco. Poi se la vuoi sottile, la vuoi leggermente grossa, la fa troppo buona, non ce ne va. Marco non ci viene. Ehi, cazzo, beh, allucinante. Torino sei sicuro che viene? Allora andiamo nei quattro, non c'è problema. Adesso lo chiamo per conferma. Sì. Si mangia la grande. Che pegheve. Attenzione, Natalino Alfa 1, che pegheve. Ora. Ora, ecco. Nemmeno il Torino gli va bene. Non gli va bene? No, solo per domenica. Picchia, sto me che è chiuso, smattina poi non avevo micchiera, era serrato, non fa niente, allora, andiamo nei tre già, adesso andiamo nei due, ce ne frega, che cazzo devi fare? Gioia, cazzo mi stanno bruciando gli occhi, non capisco il perché, forse ho guardato troppo il telefono, amici. Cercando Ciccio, No. Ma gli dà una pezzicata già? Io non ho bisogno di cercare, Ma hai dato appizzicato la tua ex? No. Proprio chiuso? L'ho cancellata, l'ho tolta tutto, l'ho eliminata. Vabbè, c'è del cazzo. E così ha preso la decisione lei, la mia ex tua. Mi ha bloccato, ho cancellato tutto, ciao, addio. Tante abbiamo matrimoni assieme, vedete, quando mi vedi mi pare luci in terra. Vado da solo, Che cosa? Che abbiamo un matrimonio, si sposa questo, mi conosce, c'è anche lei. Poi non lo so se ci va, Questo non te lo so dire, magari di fare il regalo non ci va. Ma meglio. Meglio, sono contento se non ci viene. Adesso cerca di rimorchiarti di nuovo. E tu ci caschi. No, ho voluto proprio chiuderci, ma guarda, no. Il messaggio dice chiaro già. È meglio se non ci sentiamo più, manca amicizia, niente. Dice che poi si è lamentata che non la cagavo. Ciao, ti salutavo sempre. Quando ce ne andavamo dal circo, lo accompagnavo a prendersi la macchina. E poi non ti cago. Vabbè, lasciamo perdere. E per un'altra questione comunque, mi ha visto con un'altra e gli ha fatto male, vedete, con un'altra. Ma è un atteggiamento compromettente? No, ero lì vicino e basta, niente di che. Vabbè, forse un po' si deve azzumarci. Infatti, tu anni prima come piccola tacchi siamo lì, c'era una vita. Lo so, avrei sofferto un po', però poi è passata. Alla fine sai cosa è? È che con l'età che avanza puoi stare soli, come fai? E cerca una persona prima di farla entrare in casa di mettere cose in chiaro. Perché se tu la fai entrare e non li mette così in chiaro subito, allora se ne approfitta, capito? Tu metti così in chiaro, passa così, così, così, devi fare così, così, così. A casa tua fai la padrona, non a casa mia. Fai quello che ti dicono, se vuoi stare a casa mia, ovviamente devi anche pulirla la casa. Devo collaborare, ecco, se sta a casa tua. Poi se lei c'ha una casa sua, tu sei a casa tua, ognuno a casa sua, ogni tanto a casa tua, ogni tanto a casa lei, così non si pizziccia. Per il momento non ho di queste intenzioni, no. Poi adesso le va già. E poi sei tu cazzi tuoi, già ci mancherebbe. Ma già, no. Quando ce l'hai, ce l'hai, quando non ce l'hai, pazienza. Infatti. Io, vabbè, per il problema che ho qua, meglio come, cioè non ne voglio andare da qua. Aspettiamo il lavoro che mi garantisce, me ne vado, per un appartamentino, per i cazzi miei, piccolino, manca una cucina e bagno, la voglia avanza, avanza, io idea, boh, poi se capita porto qualcuno a farmela pulire, pago e me la faccio pulire. E perché devi pagare? E perché non te la sei pulire tu la casa? Io me la pulisco io. Mi posso un mazzo pulendo, te la pulisci tu. Tanto se vivi solo non è che la sporchi più di tanto, Vabbè, già, se non la giugare, cazzo, ce la davo travaglio, non la giugare, no, me la posso pulire, pago, me la posso pulire. Cioè, è solo una micchetta, voglia, Si che abbia problemi. C'è ancora vittura. Tu pensi che abbia problemi io, ma... Ma nemmeno io ne ho problemi, se vuoi lo dico, io ne conosco una che porta il cane che fa le pulizie, però mi è venuto in mente tante volte di dirglielo, oppure non l'ho mai fatto, lo sai. Ho capito già. E c'è una che porta il cane, che lavora in una ditta di pulizie da 10 anni già, e fa le pulizie anche nelle case, quando tu la chiami viene, te la fa, ti prende un tanto all'ora. Hai visto? C'è una soluzione, basta pagare. Poi se ce la faccio me la faccio io, ma comunque non è un problema. Ma là dove mi avevi detto, non ti hanno chiamato? No, perché ce ne ha 50.000 curriculum. Se non chiama chi di dovere è un casino. E tu l'avevi già preso? Già, però se ne dimentica, ma lei ce l'ha sul, come si chiama, sul coso, sulla scrivania, fatto che gliela porta la scheda anagrafica, e poi si vedrà. Comunque lui sta cercando macellai, sta cercando salumieri, basta mettermi, io faccio, se io metto faccio, mi affianca qualcuno. Tu salumiere lo sai fare? Cazzo già, non l'ho mai fatto, ma se mi affianca io già la faccio, imparo. Ah beh, certo. Ma li cercano già che sanno lavorare, capito? Non è pure la gente, ma li danno e li prendono solo che hanno già l'esperienza, non li pigliano i dischi che vogliono imparare. C'è gente che ha lavorato in altri negozi che lo sa fare. Io lo so fare magazziniere, metto a posto gli scaffali, quello lo so fare, cosa avevo diploma. Anche quello bisogna saperlo fare. Non è così facile, come dici. Bisogna cambiare le frontaline, bisogna mettere le offerte, c'è un sacco di roba da fare di scaffali, non credere che bisogna controllare tutte le scadenze, mettere la roba che scade prima davanti e quell'altra dietro, e c'è di roba, guarda io gli scaffali sono stato tanti anni. L'ho fatto io già, magazziniere lì a Norvigros un anno, poi c'ho ancora un po' di esperienza, ma la son fatta, cosa dici? Ma la scaffalatura? Allora, li cuori, poi un po' mi metteva i detersivi, un altro po' ancora mi metteva dove ci sono, dove c'è il sale, insomma, queste cose così, scatolame, e certo che sì, metteva, sistemava la carta igienica, lo scottex, cose così, bicchieri, piatti, certo che l'ho fatto, anche nella corsia delle merendine, e l'ho fatto, tranquillo, già non lo so fare, poi è ovvio che di guardare le scadenze, è giusto che sia così, è normale, no? Però più di una volta compri il prodotto scaduto, io più di una volta l'ho comprato, perciò non è che se i controlli ci siano, eh. Vabbè, se non lavorano bene sì, ritrovi i prodotti scaduti, uno può scappare, perché può scappare, però in linea di massima se tu lavori bene, io il controllo lo faccio ogni giorno, la sera, quando c'era poca gente, mi controllavo tutte le scadenze, facevo tutto lo scaffale, mettevo a posto la roba messa davanti, quella che scade prima, messa dietro quella che scade dopo. Quando arriva la merce, spusti quella che scade prima, metti dietro l'altra e poi... E vabbè, comunque l'ingrosso da dettaglio è diverso. Ci sono diverse cose, adesso ci sono le frontaline elettroniche, io sono andato via che già c'erano già da un bel po' le frontaline elettroniche da noi. Gianni, allora... A lui conviene prendere di più un 40, adesso non dico 50enne, 49enne quasi, ci vuole molto, piuttosto che prendere uno giovane, perché c'è questo coso adesso, questa per pagare meno tasse, capito? È meglio che lui se prende un, sia per 4 anni, questa cosa qua, è meglio che lui prenda una persona così grande, capito? Piuttosto che prendere uno giovane. Magari la nuova legge, io questa qui non la conosco, però prima prendevano quelli che facevano pratica, li prendevano per un anno, per due anni, poi c'erano quelli che prendevano stagionali, diversi contratti, tipo di contratto c'erano, capite? C'era un contratto che li pagava la metà, lo pagava l'Inps e l'altra metà lo dava la ditta, capito? Già io ho bisogno di lavorare, io già mi do da fare, questo si vive da fare, poi c'è pure un manutentore, c'è una lampadina, c'è un bagno, chi si vive di fare, se vede la linea che pezzo di muro, un rovozzo, chi si vive di fare, ho bisogno di lavorare, cazzarola, qualche volta 50 anni non ha giù esperienza, non ho dovuto lavorare. No, non sto dicendo questo assolutamente, che tu lo trovi, a me mi fa piacere. Io ho bisogno di lavorare già, ho bisogno, come tutti ovviamente, però già riesco, tranquillo, se mi metto a fare riesco, anche il salumiere, mi affianca qualcuno, cosa, cioè ti fa vedere, ti fa dire come ti va, ti va alla prova e impara uno, ma ce l'hai lo stesso, basta che ti affianca, noi già la prendo subito, noi pongo a prendere una cosa, io riesco. Però se non mi affianchi è normale che uno non impara, la sua età c'è, non sono per ragazzino, comunque, è così, c'è qua rimasto qualcuno, l'Atalino ci sei? Sbaglio l'Atalino, tutti abbiamo bisogno di lavorare, già, lì se io riesco a entrare, per quanto ho capito, poi non so, boh, forse ho capito male, una ventina d'anni di lavoro me li dà. Una ventina d'anni? Eh sì. Ah, non ti prende fisso? Cazzo, per dire, no? Perché ho 48 anni, ma a 20 anni ho 70 anni quasi, non so se rendo l'idea. Io non ti facevo così grave. Io 49 anni faccio già. Piazzerò la mia ne passo. È come se tu ti fai, quanti ne hai tu? Io 60. Cazzo. se fai 20 anni di lavoro ne ho 80, e sei già vecchio, è vecchio. E ho 80 anni, non sei un ragazzino, eh. 60 più 3. 83. E secondo te sei in grado di lavorare ancora a 83 anni, ma è un po' difficile. Ma io non sono in grado di lavorare nemmeno adesso. Se mi hanno fatto invalido perché per qualche motivo. Ma io intendo dire se sei sano, capito, no? Cioè che non hai problemi di salute, mi. Quello intendevo dire. Io ho capito. Chissà che ti prendano e ti prendano un fisso, così almeno ti togli il problema. Quello solo se è il problema, già. Il problema è questo, che è brutto, perché ci inizi a lavorare già a questa età, poi ti fai gli anni lì, che sei vecchio, è feo. Invece quando uno lavora da giovane, no, come hai fatto tu, arriva a una certa età, tipo 60, massimo 65 anni in pensione, se la godo la pensione. E io se cazzo mi godo? Mi godo sempre di pigiama, lavorando lì, me lo godo lì. Va bene. Lo sai cos'è? Che i tempi erano diversi, quando ho cominciato a lavorare il lavoro se ne trovava da tutte le parti. Io ho lavorato in diversi posti, ho lavorato alla Temi, ho lavorato da Coso, a Serra Secca, a Rangelino, ma non ti diciamo, non me lo ricordo più nemmeno. E vabbè, comunque Kirchi, Rangelino Kirchi, quello che portava le bibite, ho lavorato da Emerunga, da Murtula, e ne ho fatto di lavoro. Certo. Avanti Natale. Sì, ma qua non vede manco il travaglio, non vede manco il travaglio, non vede. E questo è il problema. E magari c'è. Bisogna trovare le persone giuste che ti inseriscano. Perché tutta a base di incontri, se uno va in incontri riesce a fare tutto, se non c'ha gli incontri si ha le porte chiuse da tutte le parti. E noi chi su burro? Perché ci sono persone che per dire a Marco è entrato a lavorare lì, te l'ho detto che è entrato lì da quella ditta di energia elettrica, no? E gli hanno proposto 800 euro più un incentivi, ha cominciato a lavorare tutto quanto, e poi un giorno discutendo le ha detto: Marco, ma hai capito quanto ti diamo? Sì, 800 più gli incentivi. No, tu hai capito male, sono 300 più gli incentivi. Ho detto: arrivederci e grazie, se ne è andato. Adesso arrivo subito già, se ci siete, vado a prendere queste pizzette, dai. Ed era l'aria dell'energia, mica se stava. C'era gente che prendeva anche 3.000 euro. E adesso deve fare la stagione a San Teodoro. Oh, Natalino! Ui! Ma di che ne sei? No, ho già mangiato. Via da te. Sì. Ma ha giocato un tosta, va. No, io lo so cos'è. Mi ha avanzato un po' di sugo. Un po' di sugo dalla pasta, siccome era di quello assurdo, di quello un po' piccantuccio con la carne fatto buono. E me l'ho mangiato col pane. Era una volta che lo mangiavo sugo col pane, cari. Me l'ero anche dimenticato da tempo. No, mi fa pitare di bani, cazzo, pure a me mi piacciono questi cosi. Io ho mangiato un metà panino, poi mi ho fatto l'insulina, ho detto basta, non mangio altro stasera, se ce la faccio non mangio altro, se ce la faccio. Il fatto che ti viene fame, Marasucci, cazzo, che c'è maradia del... Mamma mia. Ehi, ti viene fame e anche stanchezza. Ui. Adesso non lo so se il vaccino, ma non così stanco non sono mai stato. Ero sempre a letto, nel senso che ero sempre a zillo. Sì, lo so, anch'io mi sento stanco, non hai voglia di fare un cazzo, già lo so, dal vaccino deve essere. Cazzo, io ne ho fatto 3 più quello anti-influenzale e io penso che sia ben di danno che tu cazzo del vaccino. Adesso il 27 c'è la corrida a Sassari e ci andiamo. Dove? È sempre anche sul comunale, no, che c'è il teatro comunale, che c'è, visto i cappuccini, salendo nella salita dei cappuccini c'è il teatro comunale. Poi le risate che ci siamo fatti con Tonino l'anno scorso. Sì, già me l'avevi detto. E mi ha detto costa 10 euro, è una cazzata. Sì, non è fare biglietto, no? E che cazzo bisogna avere se si trova a posteggio per la macchina, perché io a piedi non ci posso andare. Noi l'abbiamo trovato lontano, l'abbiamo trovato visto dove facevano prima la scuola guida, le scuole guide dove facevano la scuola guida prima, in via Enzo. Salendo da via Enzo lì l'abbiamo trovata e poi ci siamo fatti a piedi. Non ci posso venire io. Cazzo, a me mi viene un duro all'anca che meglio la morte. Prima la buia ti vivemmo con due risate, devi portare me sto pentola a fare casino, come scattare il semaforo, bene, non è un casino. No, non posso camminare, cazzo, di bari da Vienzo, ui, no, no, non ci posso venire io, no, dove non arriva vicino deve essere la macchina, a chi io non posso camminare, è inutile, manca Picasso candela, a chi non posso camminare, non sto andando più a sparare, non sto andando più da nessuna parte. Dove non arriva la macchina io non ci posso arrivare. Ui ui, vabbè. No, io a camminare ancora ce la faccio, però mi sta avvenendo sempre questo dolore al ginocchio, cazzo, fisso, ce l'ho. Un dolorino, però ce l'ho sempre, capito? Un dolorino fisso. Anche il femore oggi mi faceva male. Insomma, tutto a dolore, insomma. Già mi ha visto com'ero quella dell'Inps. Non lo posso immaginare. Ah, guarda, la vecchiaia, la vecchiaia. Allora, bravo. Come ti dizia nei vecchi di un tempo, che ci ubilasci e si di Naldi. E la vecchiaia, ciao Natali, buonasera, ciao anche Gianni, buonasera, non so che altro c'è. Che altro ci sia in questo canile? Ciao Fra, ciao, buonasera. Praticamente quando tu dicevi a uno che era vecchio o cose del genere, ti rispondiamo così di vecchi. Che ci ubilasci e si di Naldi. Infatti. E allora Natale, che si dice, che si dice? Che sono scoglionau. Hai collegato qualche cosa per stanotte, dai. Poi la produttore di stasera sono sceso per una cosa, una commissione, e poi sono salito. Come ti è arrivato bene la produttore, se? Come stavo chiamando in via Sassari. E l'attima arrivi in Ivazio e sono in casa. Dimmi tu, a te ti intendi dove? Ma, sono appena per niente in via Sassari la produttore, capito? Io non so quanto stavo arrivando. Ti so contento, sta già inteso, ti intendi più bene, ma arrivi più bene di quando entra cose, Eugenio, e non rintendo, ma su vasso, da casa sua, a me, figurati tu in macchina. Centro, è fuori Porto Torre, se quasi all'inizio. Io a Eugenio lo sento basso e a lui in macchina lo sentivo bene in via Sassari, dimmi tu. E adesso al 27 ci sono le vibrazioni a Porto Torre, sono aperte. Poi stavo scendendo quella tenda piccolina, quella mia frusta nera che tu hai visto. E stavi arrivando benissimo a Sassari. Era un'antenna minoretta. E qua io ci ricevevo bene. Cazzo un di niente di questo d'ora non la intendo. Ma dimmi tu. Io ho quell'antenna a Tintino, con l'amplificatore attaccato, arriva la bombetta a Sassari, capito? Non c'è bisogno delle antenne lunghe o corte. Se fa massa, c'è una bella massa, non c'è problema. Ma arrivavi di lusso stasera, siete in via Sassari, arrivi troppo bene. Ero da Antonello lì. Capito, mi ha chiamato che c'era una cosa che non riuscivo a farlo andare, capito? E quindi sono sceso alle 2:30. Tu mi puoi chiama, allora ma come va di un giro invece si attacca di nuovo il gatto in prigione? Mi ha chiamato perché magari era a letto, magari se lo chiamo lo disturbo, capito? No. Cosa, infatti non hai visto io usare di nobbi. A cui c'è il VRM, cazzo. Vabbè, la prossima volta che scendo ti faccio una bassa, e ce n'è stata, vi fate una gran passeggiata. Infatti, ma è per la tarina, è per la Natalina che adesso va, no? Capito? Infatti, puoi farà, cazzo. Oggi sono uscito io per fare una commissione, però da lui stasera non so che andare da Luca. Ho capito. Infatti mi ne volevo fare a Platamona, ma dovevo fare quella commissione, quindi non ci sono sceso. settimana di seri baru avvengo io sì a mezzo muso posso dire spruzzina vedi cosa mi era successo stesso spruzzina di oggi cristallo e allora cazzo gli ho messo la boccetta nuova con la pompa cazzo ah va sei tornato a fare un fumo che non arriveva chissà cosa cazzo è successo hai non rabona prende uno spillo e li infili in quei lucidi che ci sono dove c'è l'acqua e vedrai che si liberano, si intasano, a volte si intasano con la polvere, con la spioggia spora. E boh, adesso vedo, perché stava dicendo che si può essere rotto qualche tubo. Franco. Lei pensa che Marco sia innocente? Allora, vai demo, domani si è libero, Edu, sempre. Non c'è da inventare di coso, di spillo, no? Ci vuole un pezzo di filo di rame di quelli sottili. Se entri lo spillo all'ardi lo genere è un casino. Innaffi quelli che passano pure. No, io l'ho fatto sempre. Piano piano e l'ho sempre stulato così. Io quel filo di rame, quel filo elettrico sottile, il filo dentro, lo fa girare un po' e lo pulisci. Ci metti il detergente. Lo fai andare per un paio di secondi e poi vedrai che funziona. Se non c'è il tubo rotto, c'avrebbe il tubo rotto già, quindi l'acqua invece di uscire dal vetro ci va sotto, capite? Trova nella mocchetta. Ti vedevo sempre allagato e ho detto, ma quest'acqua non vede, ed era il tubo rotto, capito? Quel tubo di gomma, quei tubicini che a metri non servono a nulla. E così seccano quelli, anche dall'acquario quello che toglie l'aria, che te le l'aria per fare andare l'ossigeno, però si secca, ogni tanto devo cambiare. Ma io gli ho messo quei tubi di gomma lì presso la lavatrice, quelli gommati sottili, va benissimo. E tanto uno vale l'altro. Che c'è uno volete l'estate che tenga tanto calore non ce la deve stare. Vabbè raga, io sto andando a portare il cane, dai, ci sentiamo, buona serata, buona continuazione di questo. Buona passeggiata. Ciao Gianni, dopo il tipo tutto ce la devo ascoltare il prossimo. Mi pare che c'è Luca, boh. Attenzione, premo California, senti qua la mia via, fratello cazzo. Che bello. Ciao Luca, ma mi ascolti, sì? Sì, fra, ma appena, sì, Santiago quasi uno. La radio è un po' così, un po' sballata, non si capisce molto bene. Vedi, perché facciamo una plantena di gomma. È vero, sì. Chissà, che su Instagram, catta di abitorra, va via. Ma che ho chiamato una meci 60, perché c'era il mercato interrotto, Luca, lo stavo provando, ho capito. Ma me li facendo tutti, no? Ma vai, ora facendo tutto, ma. Sì, no, quello Natale. Un attimo che c'ho queste o qua. Vabbè, Lugarie, che si dice? Cosa di guarigione, fra. Allora, ancora? Ancora, spendere i soldi. Via, finimi in giro, andiamo a parlare. Ci ha rotto il corso dell'altro al vetri della macchina, il pulsantino nella parte destra, che fa un culo, e fanno tutto in plastica, guarda. Ah, sono i vetri, il pulsante, l'altro al vetri, dai. Ah, no, l'altro al vetri, Ci ho detto, cioè, ma che cosa che faccia della plastica? E quindi devo cambiare, adesso devo ordinarmelo. Ragazzi, un tono bianca da ne smonta. No, adesso non è il caso. Le bottiglie ci metti l'altro con lo spinotto, capito? Perché i piedi sono finiti, mentre le panne non a giocare, le mutande tutto il bandello, un cavagliaccio. Ah, è vero. Come si è sganciato? C'è sceso il pulsante dentro il pannello, capito? Quindi bisogna togliere il pannello, lascia perdere. Faeda, non c'è gli acqui lì, fra. Ah, ho chiamato Alberto a vedere, forse lo procura lui, capito? Anche se no devo guardare un pannello, perché c'è staccato e separato, tutto l'altro deve fare un pannello. Cazzo, vedo che rompimento delle balle. È tutto male di montare, come la tua, uguale identica, devo guardare un pannello, Cazzo, mamma mia, cazzo, il giramento delle balle, quando succede così. Cazzo, a pezzi pare me ne sia parenti la macchina, va. Ma tutto plastica, fanno, per carità, guarda. Allora il vostro cambio di vita, il vostro appucciante, il vostro direttamente. Ma sono appucciante per salire uno per scendere, se lo devi dire non si faccia più. Certo che è un casino. Io sei uscito. Ciao, ma non vedo. Non attaccare chi d'attacchi. E poi diciamo la novella li facciamo, si faceva la cordicella. E poi Ruduio non è a cordicella, però Ruduio è ingranaggio, mi pare, così è. No, non c'è niente. Ci ha rotto quello che sollevava il vetro, quello che il pulsante che sollevava abbassa, capito? Quello lì si è rotto. Perché l'altra cristalli non fa nulla, il motorino è a posto. È solo quel pulsante lì che sta buttando le palle, dovevo cambiare. Sì, l'interruttore. L'interruttore, l'altra vetro si chiama, quell'interruttore. L'interruttore, perché è quello dalla parte destra, quello della sinistra è doppio, perché sono lì, sinistra e destra, e invece l'indu è unico, capito? Insomma, tutta noi succede in questi cose. Per carità, va, lascia perdere. Ce la sai di vino, dirò del cristallo. Mio, dirò del cristallo, di l'altra vetri. Cazzo, mi sei barrato il motore. E quello perché mi è uscito il coso, il tendifilo. Si è sganciato, capito? E si è grugliato tutto. Una volta si grugliura e gente direi di rampare, che non ti cavi i piedi. Infatti, un peccato, il motorino funzionava. Ragazzo, solo la cordicella si era magnata. Perché si attorciglia tutto, hai visto che c'è una pulizia la cordicella avanti e indietro? Ehi, già lo so. E l'ho dovuto comprare nuovo, caro Luca. Il dell'aietto era un motorino, tutto completo. Immagino, vabbè. Ogni tanto l'unica, cioè, tutto completo da recuperare, non te lo vendono solo il motorino. Devi comprarlo tutto completo, telaio e motorino tutto completo, con cordicelle e tutto. E beh, ero manco da voi a piazzarlo per buoni 5 minuti. Cazzo, ma più dai, la mattana che sta dando. La mattina è da Cavanniro più che altro, che l'hanno grigliolato un virus, se no io non più lascia a Cavanniro. Una volta che sai come smontarlo è una cazzata. Ma anche la mia, se mi mettono lo smonto il pannello, ma non ne voglio adesso fare niente. Un altro momento non lo faccio. Domani a Manzano, lì Barusito. Allora, domani mattina alle 7 devo fare una commissione. Poi non lo so, poi quando rientro al limite ti chiamo, dai. Ehi, così mi pongo due impulli bene d'era, compare giù lo detergente, a chi li misce lo detergente, non mi butti più. Ma il detergente è mezzo all'acqua devi mettere, so che c'è un caso sempre, anche perché quell'acqua sporca che ha fatto, in caso agli ugili, capito? Sì, adesso mi metto un po' d'aceto in quell'affare, in una bottiglietta, e glielo metto negli ugili. Ma il motorino funziona quando tu azioni, lo senti? Sì, funzionava. Mi domani lo controllo. Penso che sia chissù. Il motorino già funziona. Se mi raggiungiamo a Bogu. Allora, se funziona il motorino, ci sono gli uccelli intasati o c'è il tubo rotto? Vabbè, c'è poco da andare. Sono quelle due cose. E poi dovrebbe funzionare, capito? Ma non è un problema, chissù. Il problema è che lui giocava al bannello e tutto quanto. Là c'è a fare il bezzo dell'interruttore tra il bannello. Ui. Non mi può far da farvi daghi su Gani. Dammi il giornale, bravo. Ricordami che ti do quella frusta che ce l'ho ancora in macchina io. Sicuro, due alla padrona. E allora? Taghi su Gani è poco prepotente. Non mi può far farvi daghi. A vuole tradire a lì la condanna. Ah, così è. Ricordami che ti porto quella, come si chiama, il nervo che ce l'ho in coso, in macchina, quello sottile, capito? Così me le dai un paio di colpi. A quella brutta bestia, dimmi. Franco, cosa gli faccio a Curtu? Curtu, brutta bestia, che sono quello che stai facendo, di bello. Ripugno, Angeli, che te ripondete. Curtu. e poi dopo piace bene. Allucinante. Allora, mami, guardandomi stanno. Ma io pure ci sto guardando a te, mi guai a te, mi brutta bestia. Prendo quella frusta di frusto cult. Allucinante. Bene, va per parlare di Natale, cosa ti sembra? Benissimo. Ottimo per la truffa. Non ruggiamo mai, se no siamo la baggia, mamma mia, insomma non mi puria per far avvisare di nessuna di rimanere. Fa la cosa, mettiti le cuffie in testa. Davvero? Così ascolta. E manco diventa il CWL che... Ma che bicchiere? Ma che bicchiere? Ma che andiamo, bubu, a che bare a te. E allora. Bubu. E comunque, se tutto va bene, guarda, in settimana salgo su a togliere con la roba, Natalino. Sì. Capita a me, che stamattina glielo ho detto, ma detto che non ci sono problemi, l'importante è che non piova. Capito, così ci piace, ma la butto giù con l'aria e ci piace l'altra. Sì, infatti. E vediamo un po' cosa ne esce. Dimmi una cosa, QRM a Naidu. Niente QRM. Io ho 4 di QRM qua. 17, sì. Ma io QRM non è un Natale. Niente, capito? Proprio liscio, niente QRM. Ma io ho problemi con questa antenna. Perché c'è stazionaria, capito? Sì, vabbè. E sarebbe buono la lampadina interna. Ah, vabbè, già di accordo, quindi diciamo che le porto a zero, quindi non c'ho problemi, capito? Sì, infatti. Adesso se io... Aspetta un attimo, vabbè, da poco, quasi 2 di stazionarie, me. Che fa passaggi? Ah, vabbè, già vai rugoso lui. Vabbè, sono qua, sono qui per validare, luci tutti, no? Ma secondo me... è problema anche del filo, questo filo che non serve, capito? Adesso domani voglio vedere come ti mettere in ordine quel filo in campagna, a vedere se ci arrivo, gli faccio la calata con quello là, con quello grigio. Sì, infatti. Adesso ho deciso a piazzare quello di polo dei 40 anche, visto che sto salendo, ti piace anche quello, sì, fatto. Non mi ci pensa più. Sì, me lo costruisco al volo e ce lo piazzo. Sopra, capito? Tanto cosa avevo a fare? Se vuoi zio Grumio, non me ne faccio nulla io. No, ce lo devi usare tu, lo vai a me, Natalì, ma stai scherzando? No, tranquillo, lo costruisco, già non lo faccio, sì, è cosa mi ne pozzi io, ormai, non so, né ascoltando più da nessuna parte, non me ne sbatte un cavolo. Mi so che un più rompito ricatto, sì. Di tutto e di tutti. Che ci vuoi fare? Io se salgo lo piazzo, almeno ascolto il 40, perché con questa antenna 40 litri non riceve niente. Poca roba, Santiago 2, 3, 2. Sì, così basso ricevo. Sto dicendo, va. Non daranno da antenna, Natalì, per carità. Prima stazionaria non ne avevo, adesso c'è stazionaria, capito? Sicuramente è tratta acqua, boh, cosa ne so. Io Eva, oppure vega che cosa ne rugavo che non andava. Quello sto dicendo. Acqua cosa è PL, boh. Adesso quando salgo ci devo salire con l'inverter e saldare PL su, capito? Ma non che non me lo salgo e faccio direttamente la calata giù se mi basta quel filo. Non lo so se basta, boh, se sono più di 10 metri qua. Ma non penso che siano più di 10 metri, boh. Boh, non lo so quanto allora sono. La capiamo così, a secondo, però devi considerare che ci sono 6 metri di tubo. Quindi sono 6. Se fai altre 4 e sono 10, 15 metri ce ne vogliono qua. Sì, è un casino. E all'hai 15 metri? Non lo so se mi basta, se no devo fargli l'aggiunzione. Capito? Sì, ma è l'onfio a fare l'aggiunzione. Quello è il casino, devo misurare prima di fare la calata, capito? Se non andare da buio è un casino. ce la vuoi con il 213 all'allatto? Male facesti. E ne avevo 50 litri di quello, capito? Di 213. Quello non muore mai il figlio. A me chi mi la entra d'aiba mi la diventa tutto pesi. E vabbè, ma tu c'hai la carattere 213. Quello già va bene. C'ho due carattere di 213, una di H155. E poi c'ho quella del dipolo. Ma il dipolo non è a 213 però. No. 58. Ah, 58, regi 58, ho capito. No, non so io. Ma qual è il 58? Quello buono o quello che non serve? E qua? Io non lo so se è quello schermato 58, se è quell'altro modello che non serve. Ma è pare che dico dove ci va a giro. Sto tornando disturbando. Disturbando stai? Come mai? Non mi so che cosa cazzo vai. Sto disturbarvi. Oh, yeah, per carità, un ribus, io vi lo dirò con... Sì, sì, ma oggi non ne vede più televisione, eh? Caccio. Basta! Oh, no. Oh, ma ho rompito i guglioni. Si chiama il tecnico. Ma che disturba lui, la tua la disturba. La tua la disturba, cari. No, sta guardando con l'antenna mia. Sta guardando e la mia non la disturba, un cazzo. Guardi i piedi, per favore. Allora mi ci rendi i guglioni, aggiungi tu, ti chiamassi il tecnico, li dicava. E se no veniva a sacco di rute e la giamba l'antenna e mi rompa i coglioni. Grazie uno dici televisori vecchi, crudo e coder. Ma vai a controllarglielo, cosa dico? Sicuramente la televisione è quella invece di decoder e riesce a entrarci lo stesso, capito? Perché la nuova TV non dovrebbe disturbare, non disturba nessuno, la verità. Se ti dici so con i suoi bendi, quindi voi fate, gazzanaio, mi rompa i coglioni. Ma tu sempre ti dici ma a maniera sei, mamma. Allora ti l'hanno prodotto e mi va a fanculo. Qua. Ma non rotto le balle. Oh fra, devo smettere, se no questo mi rompe il cazzo mio, sai che mi tagli così dell'antenna. Ciao fra, buonanotte. Guarda, e beh, io te lo sto interrompendo, non me ne mai bloccato si è. E allora è risolto, Natale.